Europa 24. La Commissione europea intende continuare a fare pieno uso di tutti gli strumenti di difesa commerciale per assicurare un terreno di gioco globale equo. Lo ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Katainen in apertura della conferenza sull'acciaio e le industrie energivore. Katainen ha detto che verrà intensificato il dialogo con i partner commerciali con un primo incontro il 18 e 19 aprile e anche in bilaterale con Cina, Russia, India e Turchia. Intanto a Bruxelles va in scena la protesta. È urgente agire per contrastare il dumping della Cina sull'acciaio, accelerando e ammodernando il processo europeo per l'imposizione di dazi, ma soprattutto evitando di concedere a Pechino lo status di economia di mercato che equivarrebbe a darle una licenza di dumping. È l'appello rivolto a Bruxelles dal presidente di Eurofer Geert Van Polvoorde prima della marcia. La siderurgia scende in piazza per sollecitare regole per un mercato libero e corretto. Sono circa 180 i lavoratori e gli imprenditori siderurgici italiani che stanno marciando verso la sede della Commissione europea per chiedere che l'Unione non riconosca alla Cina lo status di economia di mercato. La delegazione italiana, giunta a Bruxelles con un charter organizzato da Federacciai, si è unita ad un corteo di 5.000 persone provenienti da tutta Europa. Le importazioni di acciaio cinese a basso costo stanno mettendo in ginocchio l'industria di settore europea, già provata da una crisi di sovrapproduzione. L'eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato renderebbe più difficoltosa l'adozione di misure antidumping, mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro, non solo nell'acciaio, ma in molti comparti chiave del manifatturiero europeo. Gli operai con casco tutto da lavoro hanno attraversato la città, fermandosi di fronte alla sede della Commissione. Qui una delegazione ha incontrato il presidente Juncker, consegnandogli il manifesto per una siderurgia libera e corretta. La Cina non è oggi un'economia di mercato, spiega il presidente Federacciai Antonio Gozzi. I leader europei devono fermare il dumping adesso e salvare il mercato e i posti di lavoro. Matteo Meneghello, Radio 24, Sole 24 Ore, Bruxelles. Il surplus della La bilancia commerciale dell'Eurozona con il resto del mondo è stato nel 2015 pari a 246 miliardi, in aumento rispetto ai 184,3 miliardi del 2014, lo stima Eurostat. L'export dell'area euro verso il resto del mondo è aumentato a 2.040 miliardi nel 2015, con un aumento del 5% su anno, mentre l'import è salito a 1.794 miliardi, con un incremento del 2% sul 2014. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri dei 28, sul tavolo almeno due temi, la guerra in Siria e la nascita di un governo in Libia. Il sottofondo delle discussioni sarà segnato dai rapporti con la Russia. Durante il fine settimana a Monaco, il dibattito tra i protagonisti della politica internazionale alla conferenza annuale dedicata alla sicurezza è stato caratterizzato da tensioni verbali. L'establishment russo ha detto che ormai tra Mosca e Washington è in atto una nuova guerra fredda. Questa mattina l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha voluto raffreddare le tensioni affermando di non avere notato nei lavori della conferenza nel fine settimana alcuna guerra fredda. Il teatro siriano, segnato dal coinvolgimento russo, è reso ancora più difficile per via dei bombardamenti turchi contro le comunità curde. Ankara dovrebbe essere partner dei 28 nella gestione dei profughi in arrivo dal vicino Oriente, ma il rapporto è caratterizzato da interessi divergenti. Nel frattempo, su tutt'altro tema, i ministri degli esteri dei 28 hanno accolto questa mattina con favore la richiesta della Bosnia di aderire all'Unione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.